Naftalina Alfa 1, la cosa a farse. Ci sei? Naftalina Alfa 1, ma forse c'era qualcuno che sta mettendo la forzante, tu? C'è una salita, diciamo. Come è così basso la salita? Più di quel tanto non posso uscire io. Sempre così ho la situazione. La salata. Andale. Se riesco al lavoro, dai, ci seguo. Ma nessuno, c'era uno che metteva la forzante, ma forse no, non usciva di raia, non lo so. Cappagazza. Oh mia, e beh, come è stata? Sempre al sud. Le spese che c'era lo suoi? Sì, sì. Cappagazza. E a me invece mi ha lasciato ancora il cazzarro, tu? Non riesco a farti di questo cazzarro che c'è. Vabbè, quello dura, perché fuma è una storia. Speriamo, perché anche io me l'ho passata male. Quindi qualche tiro me lo faccio io ancora. Ancora ce la faccio, dai. E poi quando affiniamo il porto vecchio ci sarà da divertirsi. Stava cambiando le correnti, adesso è... Per il momento la specie non c'è, ma poi se si raduna tutto in quelle scenature che ci sono, si pescherà bene. Vediamo un po', tanto qualche pintantina ce la farò anch'io, là. Infatti, già, qualcosa già ci sarà ancora, cioè, almeno dove vado io, lì qualche spigoletta, qualche cosa me la prendo sempre, qualche ombrina, qualche cosa la prendo sempre, dice. Ecco, vediamo, se no si andrà in marcetti, come si andrà in passaggio. Ah no. Lì sta freddo, si deve essere più freddo. A fine estate quello lì va bene, ottobre, novembre, dicembre, anche gennaio, ne hanno preso anche a gennaio, dice pochi pesci ma mastodonti, che proprio belle grosse. A gennaio è il tempo suo, che me la sono fatto quello. Si è per i calamari, si è per le sette a gennaio. Ma per dire Roberto Quadrato non ci credeva, dice che lui tante volte non ne ho mai preso il sette, dice polpi sì, ma se però, e noi abbiamo pure il sette, e non andiamo manco in barca. Sicuro che andiamo in barca allora. Io una volta ne ho preso due insieme, l'altra lì, e c'era dei ragazzi che stavano piazzando le canne, e me ne una mano che ne ho preso due insieme, tutti e due di massicci. Guarda, con se si si prende il coppo io, aspetta che te le coppo. Due alla volta, mai visto che mi pare una cosa del genere. Va a prenderla e una mi è scappata, ne ho preso una sola, la più grossa, meno male. Allora, quella stessa l'ho scelta io, veramente, che è molto scoppalato, in fin. E quando mi sono passato io non veniva in più da voi. Ogni strage che l'avevo fatto. Claudio, io, tu. Invece che andare dritto dove va Franco, se appena arrivi al cancello qualifica la pesca. Il calamaro sì, è bello quando lo prendi perché è buono. Perché non l'ho più sentito, né visto io, l'ho visto. Gaffa, gaffa, ero un bel contento, poveraccio. Visto, gli avevo fatto vedere prima un mese di esaurimento quando l'hanno degradato, adesso l'hanno di nuovo promosso perché hanno capito quanto vale, no? Era troppo contento, cioè non li butti alla vita che l'aveva nel battuguiscio. Ha fatto una cena, una salita. Manco matrimonio, manco matrimonio, c'era il tutto calamari arrosto. No, Franco era, non Claudio, Franco. anche la frequenza per quello. Quando entra e quanto chiude, io me ne sono dimenticato. Comunque già l'ho letta adesso, 27.075. Quindi se traslano se sono fregati, perché si capisce che stanno traslando e che noi siamo in regola. Kappa. Ma vedete che ha interesse a farti, capito? A farti perdere credibilità da chi dovrebbe averla. Ti traslano e ti fanno credere che magari c'è in altre frequenze, capito? Infatti tu di sempre la frequenza come faccio io e mi canto, no? Tu almeno non posso dire che noi non eravamo qua, così. Vabbè dai, ti lascio già che io sto gente qua, al limite ci sentiamo più tardi, là. Io faccio QRT perché purtroppo sono impegnato qua. Ci sentiamo là. Alfa 1 in QRT dalla 27.075 in compagnia di Gianni De Fioru. Kappa, ciao, anche lì. Ci sentiamo, Avanti se c'è rimasto qualcuno. Ma dove sei? Sotto casa tua? No, Gio Marie, da Graziella. Ah, è perché sta cominciando a essere un po' cupa la radio. No, forse come ha avvicinato troppo il mic, guarda adesso. Beh, non mi era che c'è qua da vedere, Nino Ricciù, buonasera. Ciao Giulio, io ti ascolto, sì, io ti ascolto, una bella radio, proprio bella pimpante. Ciao Giù. Ah boh, ciao Giù, ci sentiamo, ciao. Beh, così è. Sì, ma c'è poco traffico, boh, strano, un periodo no. Poca gente, ma prima c'era sempre gente, adesso boh, tutti in letargo sono andati. Col bel tempo che c'è di essere gente, se ne stava andando. I traccati, insomma. Oh, io fa questo aspetto ogni tanto, che si calmano, rientrano, si calmano, rientrano. Poca gamma evidentemente per me, ho questa cosa più importante. Infatti. Sì, tante volte capito, io per dire sabato non entro perché me ne vado in giro e quindi non entro la sera, la notte là. Però resto dal lavoro sempre accendo. La notte è fatta per dormire, nonno, io mi. Tra poco, altri due minuti, dopo chiedo boh. No, la notte non entro mai, vedi, già entro poco di giorno, ma la notte no, nulla, no. Magari altri tempi, 6 anni fa va bene, ma adesso no. Oh, adesso mi vado a mangiare, dopo mi guardo il televisore e da voi attaccami si cocco. Boh, inizia che arrivare anch'io. Ah, oh, beh, che piacevole, già rilassante. Tranquilli 5 minuti così fino alle 10 e mezza così le 11 va bene, poi io sarò tutto pure a chi mi viene il giorno che sono tutto fracco e diciamo sta lavorando, sai come è così purtroppo, va boggia, ci sentiamo là a domani eventualmente, ciao, buonanotte, già chiudo e mi sta chiamando la signorina e per farmi, ciao. Ciao Gio Marie, ci sentiamo, stavi bene. Ciao Gio Marie, ma per il buon tutto. Oh Mario, ciao Mario. Ci sentiamo, ciao Mario. Ciao ciao, buona carica, buon tutto. E saluto nel cuore. Ce la riascoltiamo Gio Marie. Ciao ciao, riprendi Gianni. Ehi cappa. Ho detto boh, manco Mario si sente, che strano, nessuno sta più entrando di sera. No, veramente io ci sono sempre, capito? Siete voi che mi avete abbandonato. Non è vero, qui ci sono sempre, Mario. Io da quando entro al lavoro, poi vado a mangiare e poi mi attacco. Ma niente di Mario. No, non è relativo. E senti quando... Ah, io che sono mai niente. E beh Mario, la giornata di com'è andata? Benissimo, mi sto solo, non ho fatto quasi nulla, poca cosa, quasi niente. E invece noi abbiamo lavorato di brutto oggi, perché c'era gente in malattia, eravamo contatti, io c'avevo un reparto tutto per me da sistemare, figurati. Sì, quando beh, tu e mi sistemati bene tutto perché c'è poca gente, già non ce la fanno, eh. Ho detto, mi adesso c'è la Plaza Mora, quando rientro, tutto il tempo che c'è, fino alle 7:30 io mi do da fare. E così ho fatto, ho sistemato tutto il reparto dell'acqua, bibite, tutto quanto. Fino a quando ce l'ho fatta, poi alle 7:30 c'è bilato e mi sono andato. Vai cappa, ma che compreso, Avvio. Fatto benissimo, davvero. Ma non è che mi serve una mano lì giù, no. Oh, tu pensa che magazziniere era contratto formazione, ha finito il contratto e non l'hanno rinnovato. E se aveva bisogno di più la macchina. Cappa. E quello è l'armadio di molti, appena che hanno un contratto di 3 anni, subito la macchina, quello, l'altro. E non sanno che dopo 3 anni tutto finisce e la macchina rimane da pagare. Infatti, no, ma gli avevano detto che probabilmente lo stanevano, poi invece il lavoro dice che è poco e che non c'è più bisogno, allora c'è sempre poco, si va a arrivare un massa a lui. D'accordo, l'ignorare. Chi è? Io parlo di lineare in capo, ordinari. Non ce ne sono lineari qua. D'accordo, l'ignorare. Fai la brusca. Ordinari, io sono 4 manecci, che mi dà una busta. D'accordo, l'ignorare. Luca, fai la bravo. D'accordo, l'ignorare. Fai la bravo, Luca. Riprenditela Mario, riprenditela. Cosa riprendi? Poco da riprendere, c'è un dromedario lì che sta bloccando ogni tanto. Avanti dromedario, brutta più. Vuol dire che ha finito il momento. La biada. Allora, ma ti conviene a lei, sta pure a testa legno. Oh Davide, è bello andare a pescare in questi giorni qua, con questo tempo. Hai visto questi 2 giorni? Casi sembrava quasi in primavera. Solo che magari capita la domenica che fa brutto tempo, non ce la fai mai. Visto domenica c'era un ventaccio. Se no Franco me l'aveva detto se scendevamo a pescare, ma c'era troppo vento. Esatto, ma non c'è andato manco lui. No, è meglio, si poteva andare Mario, con tutto quel vento, c'è un maestrale allucinante. Cappa, io oggi ne ho portato l'acqua dalla barca. Ah, già preparando la stai? No, c'è un portalone che era tutto affossato dentro la barca, pieno d'acqua. Ma gli ho messo una pompa e l'ho fatto attraversare. E avrò fatto la forza dentro, no? Il peso l'ha buttato giù. Un po' di positivo. Ma l'aperto ce l'hai? Ah, e allora? Cappa. Ma pensavo fosse dentro il cappannone. No, nel cortile del cappannone. Ah, andate. Almeno quello, dai, te l'ha fatta meglio, almeno. Non ti paghi il parcheggio. Non paghi il parcheggio, però lì c'è un casino la notte, vanno tutti a contare. Vabbè, se sono coppette non è che si mettono a fregare la roba alla barca. Il brutto è quando c'è la delinquenza che vanno a fregare la roba. Ma è bella che c'è la delinquenza, hai capito? Bobo. Mario, bisognerebbe avere un bel parcheggio, un bel garage grande per mettercela dentro e stare bene, ma purtroppo non tutto si può avere. Tu cavoli dai, oggi è giù cazzato. Oh, io, porca di Dio. dammi, dammi, dai. Sabato notte, se fa bel tempo, ci vai. No, la domanda era riferita a tuo figlio, se sabato notte, se fa bel tempo, ci vai. Schiacciata, una panda, era nuova, è la nuova, è che la schiacciata. Adesso dove c'è, non è stata per passare lì due lì. vacanza chicciata, ma era nuova, una targa nuova nuova. Se vai anche dove senza l'aspettario. No, hai visto che girano prima del ponte, dove non si può girare. Che girano per essere stati due lì. Anche dal vicino mi ho preso. E ora non è periodo. Non può periodo che mi sono rientrato un poco per mangiare. Quindi va bene, ma io non ci vado a mangiare, io faccio via. No, dall'altra parte non si sente niente, dove è tratta la cucina. No. No, molto di meno. Sì, ma lì, io me lo ricordo, ce l'avevo anch'io, che mi abbiamo. Non so, una notte ne avevamo scattato anche uno, Alfredo Cavazzani. Cavolo Catacata. Ma lì ci sono tutte le tane dei grumi, sono tutti in punta, perché io me lo ricordo da piccolino, quando andavo c'era sempre la gente ammucchiata lì per pescare i grumi. Sì, ci sono le tane, e sono tutti grumi, tutti qua. E la pagata, solo che cosa vuoi? Ora è tutto un cantiere. È un casino. Che stavano facendo i lavori, ci abbiamo provato, ma sono detti tutti di fare, infatti abbiamo dovuto prendere una granata per pescare, ci siamo andati in campagna. Beh, tutto qua, quelli ci sono ancora cingolati, c'è un bel casino. Però io stavo pensando, ripensando, che lì, quando esco con la barca, non tutte le dicono. Ah, eppure lui è un resente pescando. parlo del polo industriale io sto parlando alle spalle tutte del molo Cattari per entrare verso la Marinella, che lì c'è il cantiere navale, se lo sai. Io sto dicendo, quando esce dal porto lì per andare verso il molo Asi, però non c'è mai il molo Asi, tu metti lì in mezzo tra il molo Asi e il molo Cattari e ti metti a polizionare, lì non dovrebbero dire niente. Ti dicono, bisogna guardare quanti metri sei, devi essere staccato parecchio, mi pare che siano nel pomiglio 800 metri o qualcosa di là, verso acqua corrente puoi andare a pescare, però non puoi stare neanche a picco sotto le rocce. Tutti quelli che vedi a pescare, come tutti quelli che vanno a rubare si può rubare, no, alcuni vanno a pescare, dentro il porto non si può pescare. Io Dalla pastiglia chilo, 950, non ho mai pensato di fare solo mezzo chilo di uovo allora. Lo stavo dicendo io a Gianni che lì si pescano negro. conosci, abita lì al monte. Giuseppe. Sì, io ho capito. Ho sempre fatto di quello che sto pensando io. Sì, sì. Va bene, dai. Vi lascio il vostro questo, che una mattina sarà una lunga giornata di battaglia. Guarda, a me poi questo discorso mi attizza, mi piace. Ma va bene, non puoi andare di chi, non puoi andare di genere. fucile già ne scavo un momento. Quindi ho mollato perché la volta mi si è sentito male, andiamo a se ne accorta e mi ha sgridato, ma è qualcosa che mi riprende, ma non posso affollare perché non volevo stare col pensiero che mi facevo male. Facciamo quella cercata. invece di dibattimento di parole macchie, che sono parcheggio naturale, scavata tra le rocce e c'è l'acqua che è limpida, una piscina, Mario, una bellezza. Si fa davanti io, tutti quanti. Lui fuori già, praticamente, mette il tavolino, c'ha un buco dove mette il fondone, c'ha la stendalino, e ci mettiamo a mangiare, ci mangiamo un po' per uno, un po' di vino, e poi partiamo di nuovo. Tutti ragazzini, quell'altro che c'è lì a Serra Secca non ci va Sta facendo questo mobile a misura, così poi boh, faccio fare i vetri e niente là. Comunque, salutoni e salutami anche l'altro amico di Ma oggi la compagna Tommaso, sino Valdese, la Sassari. Mi ha detto che mi sentivo con la bomba, proprio benissimo. In mamma ce va benissimo questo microfono. Ma ora avete compreso che non verrà più nessuno. Perché sei nel penale già, cerco di non parlare. posso, io non sto offendendo a nessuno, sto parlando in, genere, in generale, non sto difendendo né a uno né all'altro. Vabbè, io ti ho registrato, è stato 4 lunghi, quindi come me hanno sentito anche gli altri. Vabbè, ci siedi. Ma cambiamo discorso, ma cambiamo argomento, dai. Infatti non voglio entrare io sul discorso politico perché non mi piace. Dai, entrate voi, riprendi Mario. Sì, mi sembra che la cosa migliore è sempre quella di andare a pescare lì già. Ma Dio, come fa quando vuoi fare la mia? Sì, sì, non ci sono né tutti i guizzi, né malumori, né nulla. Fanno schifo, no, te lo dico io come fare, me la faccio mettere una notte sotto sale. bene, se qualcosa andrà, mettere sotto lo spalle, che si fa la parola, che si tiene come si fa il baccarato, e si tiene che sa fuori. Erano buone. Vabbè, ma è una preparazione diversa, mentre il pesce di mare lo puoi mangiare così, te lo cucini e ti piace senza bisogno di fare tutto questo tipo di discorso. Capisco, però se sei come cucinato, quindi di me c'è molto sale a prescindere qua la voce, e di modo che si sale un po' con il sapore. E qualcuno ci mette l'accetto, dice che lasciano tutta la notte in mezzo all'accetto. E io lo faccio di inviare, guarda. Ma le persone bisogna sapere dove si spostano, non mi ha pensato molto famoso. Guarda, io ho visto una carpa gigantesca presa al lago di Baras e sono spaventato, non l'avevo mai visto così grande. Era una cosa enorme, l'ha presa un ragazzo a Pasquetta qualche anno fa. L'ha tirato, però alla fine l'ha ributtata in acqua, se non si è volte a nuta. Lo so. Io di al lago di Baras, quando faccio un incendio, ho scappato una tanta lunga di colomba grande. O la canna? Con la lenta a mano. Quando facciamo un pincino, sai come la faccio a mano? Guarda, non so neanche a dirlo. Per passare il tempo, noi la chiamavamo la zona sanvogliata. Prendevamo la lenta a mano e mettevamo un pezzo di pane. Con la mollica di pane, quando mangiavamo, non ci vado così. Cioè, la roba che abbiamo preso, una cappa ce l'abbiamo messa nel muro, la pincino, per prenderla fresca. Abbiamo preso la tartaruga, vabbè, noi ce l'abbiamo buttata in acqua, però ci stavamo ossicando, stavamo prendendo, ma ci stavamo ossicando, la tartaruga era la una palla. La tartaruga è una musicheggia, un bel gente non lo sa, mai non ti vuoi aiutare, però bisogna stare attenti. Capo si fa la lunga, non ci ha detto, ma c'è il becco. Non è grossa, era. Sì, ma c'è anche questa cosa bizzarra. Tutti gli incendi li fanno loro e poi molte volte arrivano in visione al fuoco e i meriti se li prendono i vizi. In Baracce? No, non so neanche in Baracce, ne c'è mai un altro nome, del ministero sono comunque. Questa non so qua la corretta, cosa c'è? Un ministero dell'interno? Sì, mi sembra, però sono quelli che stanno sopra la torretta, l'hai visto che ci stanno la notte, 24 su 24 stanno, io pensavo di andare in vettura a Gozo per farsi gli esaminati, invece lì c'hanno il servizio 24 su 24. Forestale? No, non è forestale, no, mi ha detto un altro nominativo, roba del ministero, però non mi ricordo adesso cosa siano. Lì avrei visto 10.000 volte, quei camion grigi sono, però non c'entra niente la forestale. Sì, magari fanno parte della stessa cosa, però dice sono un coso specifico, un gruppo specifico, che dipende sempre dal ministero dell'interno, però non c'entra niente con la forestale, è un'altra cosa, una diramazione, non mi ricordo, me l'ha detto il nome attivo, adesso non mi ricordo però. Che ucciso quello fa? Come? Che ucciso quello fa? Bruno, non so, ucciso, cosa sono quelle dell'ambulanza? Ascolta, no, vabbè, li conosco così solo per nome, ma ho visto c'è uno scandalo, ho letto la giornale. Ma che cosa? La direttrice che si prendeva i soldi e se li mangiavo, ho detto l'acqua con suono a Sardegna l'altro giorno forse. Non ci sono graduato. Come è uscito un giornale a Roma Sardegna che lì ci davano dei contributi e questi contributi sono andati a finire in mani sbagliate, dai. Ma quando ci sono di sala? Non lo so, di questo non te lo so dire, forse non vorrei riflettere, forse porto cose, però non è stato un giornale proprio un paio di giorni fa. Ma sì, comunque non esistono segretari, ci sono capi gruppo, vice capo gruppo, capo squadra, sono tutti graduati, il capo gruppo vuol dire che ha una palla con la palla di un'altra. Capogruppo o qualcosa del genere. Potrebbe essere un'associazione che io ho capito quale è. Boh, non lo so, vabbè, non insisto, ho detto qualcosa l'altro giorno, proprio sulla nuova. Riprendi Mario. Ma c'è questo saldo, no? No, no, era un nome attivo tipo quello, un codice così abbreviato. Diventava operatore. Ma non è come stai dicendo tu, io la croce luce sono stato 4 anni, cioè avevamo praticamente del problema del vitro di coscienza, se è stato il vitro di coscienza c'è stato un medico che ci faccia il vecchio sul pronto soccorso, noi eravamo preparati come siamo preparati adesso, voi alla croce luce facevamo il corso. E io guarda, tu ci sei in mezzo, insomma, io ne ho visto un po' di ambulanze già puttate dentro in via Grazia dell'Edda, in via Pascoli, in via Miremacchia, io adesso si sono calmati, ma lo sai quanto ne ho registrato di macchine, di incidenti stradali capotate dentro città, in via Grazia dell'Edda, come fai a capotare, sei in salita a capotare un'ambulanza? Quella era la macchina, quella è l'ambulanza che avevo portato da fuori, era un Volkswagen, quella che fece il tuo Volkswagen 4x4, l'avevo portato da fuori io quella ragazza. C'era un 238, l'ho visto un sacco di anni fa, poi ne ho visto un'altra in via Pascoli, qui chi c'era? Vicino dove c'era il cinema Rex, chi c'era di lì? Avevo visto un'altra, lo stesso capottata di macchina, ma lo sai quanti laggiù visto? Poi in giornale non parliamo, ma se ne uscivano le macchine facendo riscese. L'altro giorno a Giumello mi ha ammasso, meno male qualche tanto mi è stato vicino, a Giumello mi ha ammasso, è uscito, stavo camminando col verde tranquillo, ne è arrivata questa manettona nell'incrocio di via Budapest, io dico rallenta, a manetta, col semaforo rosso, meno male, me ne sono accorto e ho rallentato, solo mi prende in piedi e mi ammasso. Sono lì, stante, alla testa dell'autista, io ho guidato per tante anni l'ambulanza. E ti dirò che nell'incrocio verde o rosso, un genere o non genere, rallentato, controllato, guarda, se mi avesse preso in pieno mi avrebbe ammazzato, lui ci sarebbe ammazzato peggio di me, perché a me mi avrebbe preso in pieno al fianco, la multipla è alta, però ci saremmo fatti male, ma male male, perché lui sarà stato meno a 80. Io ero in mezzo all'incrocio, meno male ho fatto in tempo a frenare, perché sentivo questa sera non riuscivo a capire da che parte era, le è arrivata la manetta, o c'è che abbia rallentato, lui tanto. anche tu che non avrei mangiato. Io non so perché sono io, però non so se sono parlato, la volta che lo aveva portato lui, via meno la signora di Italia, prendi un cruccio, perché le macchine sono fermate per farci passare, e questo furbetto è riuscito a dietro la fiore della macchina, ci ha preso un pieno dietro, ci ha fermato per la mano, ci ha fatto capocotare. Sì, vabbè, quelli sono casi particolari. Però cacchio, a far capottare via Grazia dell'Edda in salita, come ti vai a capottare? Quanto devi camminare tu per capitare e capottare in salita? Sto parlando un sacco di anni fa. Poi, non parliamo un paio di anni fa, alle 3 di notte sono andato a accompagnare a mia figlia e gli faceva male all'orecchio, l'ho portata al pronto soccorso dei bambini pediatri con 4 anni fa, lei era piccolina piccolina. In via Dante, alle 3 di notte, che non vedo un'arma, tu dove vai questo scemo correndo con questa macchina? Non c'era bisogno di correre in ritardo, con le sirene spiegate, io non ho capito che bisogno c'era. Ma infatti non so se non ci mette mai la sera lui. Ci mette solo quella condizione che ne incruci. Guarda, io ci vado tutti gli anni in Francia. In Francia, addirittura in certi momenti, diminuiscono il bitonale, diminuiscono l'intensità, negli incroci li diminuiscono, cioè li spengono, cioè li accendono solo negli incroci, nei rettilini li spengono, non vanno necessari, ma c'è chi male e quando c'hanno la sirena, tipo i bambini piccolini, a divertimento. Adesso un po' si sono calmati, ma qualche tempo fa era una cosa allucinante, ne facevano tutti colori. Una lettera, se quando c'ero io non ho letto in macchina, che c'era una lettera che praticamente certi tipi di sirene non si potevano usare perché facevano l'inquinamento acustico, eccetera, eccetera. Con la fischio, per dire, non si può usare, è proibito. Sì, sì, io ce l'avevamo qua vicino a Fornarini, sono stati un paio di settimane che facevano scuola a guida e si mettevano a correre come gli scemi intorno all'isolato, correndo con le sirene spiegate, dice facendo scuola a guida, con le sirene, ma tu dove vedi questi qui, era una cosa allucinante. Non lo so di che cosa erano, stavano sempre girando intorno all'isolato, facevano tutto il giro, ma roba di 40 volte, non una volta, beh. Ore intere girando con queste sirene, poi alla fine la gente manco ci crede. Sì, vabbè, come tutte le cose, tutti i punti, c'è la gente che si sa provocare e la gente che invece approfitta magari di un mezzo di soccorso per trovare l'emozione della sirena, della velocità, e attaccare. Io sono stato sempre consapevole perché quando guidavo la mula, per entrare dentro l'acquedotto nel campo di calcio, non l'hai vista la televisione? No! Non hai visto che in Serie A ci sono quelle macchine elettriche per prendere il giocatore infortunato? Lui ha preso una Citroen ai Maiali, la conosci con la macchina da spiaggia, fa busto una lettiga e voleva entrare dove la retta di Damasco con la macchina con motore a scoppio, anziché elettrica, poi sono tutte elettriche, quelle lì. Sì, una cosa, tutte le placche con la macchina. E tu dico, ma che vantaggio hai? Vai sempre all'ambulanza a bordo campo, di lì, non sei allo stadio San Siro, che ci sono spazi enormi, eccetera, eccetera. L'ambulanza è a bordo campo, cosa vuoi? Ma ti pare che tu c'è uno in terra, ti avvicini con la macchina, con lo scarico, gli spussi il gas di scarico in faccia. Al limite usa un veicolo elettrico, a batteria o cosa del genere, che non crei rumore, oltre che fumi, eccetera, eccetera. Mettere in buona situazione magari che la macchina ha tutta la vibrazione, perché tutta in pratica te la metti vicino per fare 20 metri e arrivare all'ambulanza. Ci vai a fini con la balena. Se no al limite ti bilioni per 50 e te lo muovi nel cassone, fai più bella figura. Vabbè, ma c'è tutto il motore, una bicicletta, con l'elettrica. No, se naturalmente, no, dico, meno modifiche, ti bilio un cassone di F50, va lì, anziché mettere una Meari che non c'è neanche posto per mettere la lettiga. Comunque, la questione è che prima non me l'ha fatta, facciamo una camera per Meari che lì non può stare, Sì, sì, quello già me lo ricordo, c'aveva una delle prime del centro di rianimazione mobile, non è così? Sì, allora ricordo, ma non mi ricordo, e ci vogliono anche le persone abilitate per utilizzare quelle cose, non è tipo fare la camera iperbarica e non c'è il medico iperbarico che la sappia usare, metti una persona acustica, cosa fa? No, io sono loro, non mi ricordo. E chi c'è la merda? Andrea, quando mi ha fatto il servizio con il medico, ho fatto la loro. Medico iperbarico, specializzato. Poi c'è la merda, e poi c'è la sala di compressione, no? Sì, no, io c'ho un amico che è medico iperbarico, lui si lo conosce il corso, c'è la palestra pure, ma è uno dei pochissimi che ce l'ha con la specializzazione, in Sardegna sono pochissimi. Mi è successo una volta che un amico ha preso un embolizzato, no? Un film embolizzato con l'ambulanza. Arriva la camera informatica e c'è lì la mamma e il socio. E non c'è il dottore, perché l'avevo trovato per un mese e la socio. Siccome ha preso tutto anche il medico di guardia, si era spostato alla camera informatica, io non sapevo più cosa fare. Poi mi hanno fatto un vero sasso di sirena. Non abbiamo un medico per bagno a disposizione, sono pochissimi, c'è la Maddalena, uno quello del Sol, del Mare Sardegna, e poi forse a Cagliari qualcuno, poi non so se a Alghero ci sia qualcosa, ma sono pochissimi in tutta la Sardegna. Questo è un po' di tempo, fortuna la di gioco, perché sennò l'elicottero si muove. Cappa. Si è salvato pure. Questo non lo so. Noi l'abbiamo caricato insomma la seconda, l'elicottero ha scalato qui al gondola e l'abbiamo caricato una volta. Sono cose pericolose, quelle cose lì, mamma mia, meglio non avessi mai a che fare perché non sai come intervenire. Cioè anche se ho portato sotto soccorso cosa arrivati di nulla. Noi l'abbiamo la camera di preparare all'ospedale, solo che non ci sono i temici. Lo so, è una cosa molto molto particolare, cioè specializzarsi in quella roba lì sono studi particolari, eccetera, eccetera. Purtroppo chi fa tutti i servizi non avesse tutti i colori, ma davvero ci sono dei quelli che fanno i corallari, ce l'hanno dentro la barca, la camera iperbarica, quella specie di coso di scaldabagno, li avevi visto, mamma mia, ogni bilico entra anche lì dentro, solo per entrarci dentro, mamma mia. E poi ci sono quelle che addirittura il corpo non rimane completamente dentro, ne rimane un pezzo fuori e ci sono delle specie di salsicciotti per i piedi. Sì, ma non lo so che la fanno prima di calarsi. Sì, sì, vabbè, quelli sono dei professionisti, usano tutte le precauzioni, ma l'altro giorno proprio me ne stavano raccontando uno che è morto, qua qualche tempo fa, qualche mese fa, lo stesso si è fatto prendere dalla bramosia di prendere, erano in due, prendendo coraggio, lo sento proprio l'altro giorno, questo erano a 110 metri, ha visto questa fase di corallo, come devi dire, ci sono delle regole, devi rispettare quando trovi una pianta, non so cosa devi fare, devi rispettare non so che cosa, che procedure, e invece questo ha voluto fare l'ingordo e ci è rimasto. Intanto ne muore qualcuno, che può essere l'alghero di questi corallari, non mettere il malordo, ti fa guadagnare un sacco di soldi, ma c'hai dei rischi allucinati. Tu a Patamona non l'hai conosciuto, io già l'ho conosciuto fino a 15 anni fa, ma erano enormi, delle cose allucinanti. A Patamona avrei senza andare alla ghiera. Ma tu l'hai mangiata? No, assolutamente. C'è gente che si rimane, a me non mi piace. Oh, non mi piace, non le ho mai mangiate, non posso dire, ma no. Ci credi che io non ho mai mangiato in vita mia i ricci e li ho presi con le ceste. Andavamo con le ceste del pane a Travariglio o zona di Alghero a prenderli, però li regalavo. No, le ostriche sì che le ho mangiate, ma le gnacchere non ho avuto mai il piacere, diciamo, non è che mi attirino più di tanto. Le ostriche sì, che sono cose ricercate e care un mare, però le gnacchere mi sembra una cosa poverina, dai, come che ti mangi cosa ti posso dire, la garata, lo conosci la garata. Il pandoro non l'hai mai mangiato tu? Sì, io l'ho mangiato. Sembra un modulino non si buccia. Ehi, allora già sei di campagna anche tu là. Io forse perché abitavo qua in zone periferiche, eravamo in mezzo agli orti, in mezzo alle campagne, e posso dire di quelle cose lì l'hai già mangiato di tutto. Come mangiato a Pavanzuro, tu non cagare, quello che fa la caduciata. Quando ho detto ma allora nel 2017 ci mangiano un magro. Cosa ti rammenti quando si andava al centro storico a comprare quei rametti dei ceci freschi? Per quello, per quell'altro lo vedo. mascolino, tutti i figliosi, il cardo, perché non te lo mangiavi mai, il cardo selvatico. Un sacco di andavamo a rischiare, ci mangiavamo i bisogni che prendevamo. Io dove abito adesso, prima era tutto campagna, 30 anni fa era tutto campagna. Di ferro a rotto e ti rimagnavi, si vedeva guai, cioè, sono cose che neanche si immaginano i ragazzi di adesso, si andava a cacciare col tiro elastico. Dico, io andavo in officina, un pezzo di trafila, e si faceva più. Siamo sui 52, sarà 53. 54. Mi sono avvicinato, io sono io 42, quindi me ne vinci 12. Sicuramente non era ancora, non manco dei rimbalzamenti di babbo. Cappagappa, io nel 56, quando ha fatto tutta quella leve, sono partito da casa mia, che allora era in casa di mia madre, sono sceso alla stazione. Ma c'era una stanza di quella neve e mi sono fatto un giro di tutto Sassari. Sono sceso dalla stazione sono andato a Montelettre, da Montelettre ci sono salito i pompieri, dai pompieri ci sono salito oltre il serbatoio, da lì ho girato la Monte Bianchino e ne sono sceso lì a fianco alla torre, se diciamo, là, che poi non è proprio la torre, se me ne scende lì al quadrato e poi si andava al monte, ed era tutta strada bianca lì, è vero, non era neanche asfaltata lì. C'era solo Carlo Felice e Viale Adua, c'era tutto un montinaggio, perché il capo del Cornacchi ha già naturalmente tu l'hai conosciuto. Il capo? Il capo delle Cornacchie, dove si andava a fare motocross dietro i militari, adesso è tutto costruito lì, dove abita la zona tipo Claudio, quella zona lì. E lì c'era il campo delle Cornacchie, un po' verso i militari. Ma quello lì, diciamo che dove c'è la Claudio era tutto quanto, tutto Rivetti era lì, dove c'è Claudio. E di fronte dove si entra lì a Corso, adesso è tutto asfaltato e su tutte le strade buone. Lì andavamo a caccia, alla Rosita, che si entrava per a farla, poi adesso non mi viene il nome, Sacrificio, e altri che entrare dritto, dovevi girare subito a sinistra, ma era tutto fosse, tutto sulla bianca, se si andava giù e si andava a caccia, e praticamente rimanevi alle spalle di Scalaricciocca, là, capito? E niente, ma quando le ho girate io quelle zone lì, ma era tutto Gappagliardi, tutto sulla bianca lì. Sì, sì, sì. Guarda, Carbonate esiste da 30 anni, sì, ma 30 anni fa non era nulla in Chivi, era tutto campagna. Dove ci siamo noi, lo stesso, quando è arrivato mio padre nel 57, era tutto campagna, c'eravamo solo noi e Meloni, c'erano Meloni, il padre Morani, ma il padre di Francolino. Sono due case, c'eravamo, poi c'era la Fiat, è arrivata, la vecchia Fiat, e poi non era nulla, tutto campagna. C'erano gli orti, me lo ricordo, io c'ero Nicolino. Gappa di positivo, e così non c'era niente lì, ma non da me, era deserto, tutto le reti, lui si andava a casa. e lui si è andato solamente a caccia e a fare asparagi, roba così, lumache, niente. Ma come sta diventando adesso Montebianchino? Prima non era nulla Montebianchino, adesso si sta tutto allargando, stanno costruendo, sta diventando come era 30 anni fa dove abito io adesso. Poi tra 20 anni Montebianchino sarà come si cominciava la zona di Fumicetta, no? Vabbè, cappagatta, perché poi quando sarà decideranno di asfaltare, di fare le strade e così via. Come io magari sarò vecchio se mi trovo pure, ma tra un po' vedrai che anche lì a Corso inizieranno lì a allargare le strade, lì la zona di carica, dove c'è il tratto proprio comunale, ma c'è la Iace, tutto ville, villette lì, lì tra un po', adesso sono già tutte le strade asfaltate, ma vedrai che tra un po' lì, con la scusa del servizio dei tram, è cosa che se passa il tram, passa una vettura, la vettura si deve fermare, è ora, vedrai che tra un paio d'anni lì decideranno di allargare, di fare strade più decenti e così via. Allora, diventerà un grande centro anche quella zona lì. Sappa, riprende il Gianni. Riprendo, ma non mi metto perché troppo stanno mi rompo nel cercare il vicino. Cappa, cappa. Oh, ma non è entrato nessun altro, solo voi due ci siete. Dalla Greffa a Lucca non sento fare niente, neanche ieri, appena appena. No, io non sono messo stasera. Conosciuto, oggi è passato cosa, Salvatore, se ne parlo, c'era Natalino, è passato in officina. E più ti sono detto, uguale. Siccome è stato lo conosco bene. Di chi di Natalino? Io, e quello, il pasticcio era Angelo. Appena l'ho visto dalla voce, c'è stato neanche c'è. Chi sei Natalino? Mi sono girato e ho fatto io, detto, chi sei Natalino? Vabbè, io per come mi ricordo del fratello, l'altro fratello Mario non lo conosco, conosco solo ad Angelo. Il fratello c'ha. Ancora ce l'hai i baffi Angelo? Sì. Sempre Bissiso. L'ho visto esattamente ad Angelo nel 2000, quando abbiamo fatto il 50 anni della squadra. 6 anni fa quasi, no? Io giocato a pallone. Era molto bravo a giocare a pallone, era veramente bravo, giocava a centrocampista numero 10, non era alto, però c'aveva i piedi buoni, giocava bene. Il problema suo è che faceva un tipo di lavoro, di arrivare sempre in frasco, perché lui la mattina, domenica mattina era orario di lavoro per lui. E noi giocavamo la mattina alle 11, lui doveva andare in pasticceria, poi venire a giocare e rientrare fuori a fine lavoro. Okay, è un lavoro un po' sacrificato, però un bravissimo ragazzo, educatissimo, sempre ordinato, nel senso non ha mai dato problemi. Signori, ma è bravo. Signori, io vi saluto, ma nel vale mi metto tutta la lacuna perché domani si lavora e sono quasi l'ondesi. Andrà bene, ce la riascoltiamo alle prossime. Buonanotte a tutti, buon proseguo e ce la risentiamo alle prossime. Là. Ciao ciao. Ciao Mario, buonanotte. Ciao Mario, buonanotte, buon tutto, buon lavoro per domani. Ciao ciao. C'era un periodo che era anche se tocco la bandiera, facevo allenamento, ma facevo la bandiera, sono una strada tutta per le attrici. Di chi di Angelo sta parlando? Allora. No, no, no, io lo conosco solo per questione di calcio e basta. Certo, l'ho visto l'ultima volta quasi sei anni fa, adesso mi immagino che sia uguale, ma non lo so, non saprei neanche se è cambiato, perché sei anni qualcosa cambia di fisionomia. No, no, è sempre uguale, no, c'è la fisionomia. Sempre lo stesso lavoro fa. Cosa lo conosci tu, Salvatore? Quello, l'amico mio, diciamo, figlio di mio padrino, è l'amico di corso, di, amico del comune di Natalino, che gli fa una mano per il corso di partenza. Da. No. Perché lui entrava tanti anni fa in frequenza, Cobra però ma Cobra non lo conosce nessuno. L'altro giorno quando è entrato, ieri forse che è entrato, l'ha salutato, non c'è detto. No, io. C'è una voce diversa dalla realtà, cioè se lo senti in realtà è leggermente diverso. Mi cambia parecchio la voce, la radio a lui. No, io lo conosco, non si sento parlare di questo Cobra. Era un bel appassionato ed è ancora molto appassionato, fa collegamenti, diciamo, si interessa su altre frequenze, fa collegamenti. Il mio più mi sta dicendo che ha fatto non so con cosa ha collegato la Nuova Zelanda, non so cosa abbia fatto, roba importante, diciamo. Era proprio fanatico, addirittura aveva una macchina, una Ford Sierra Station Wagon, una macchina enorme, l'aveva disegnato un Cobra nel cofano, l'aveva messo enorme. Allora, non cobra vero. Come? Non cobra vero. Allora, disegna, ha preso un adesivo, non so cosa ha fatto, ci ha disegnato un Cobra nel cofano della macchina enorme. Lui c'aveva un'antenna, mi pare 2 metri dell'antenna e l'altra la giapposta. No, non l'ho mai visto. Lui aveva anche una Ford Fiesta, poi ci aveva preso e aveva trasferito tutto lì. No, un bravo ragazzo in gamba. Ma è giovane. Sì, è più giovane di me, guarda. Non molto, ci avrà adesso, anche se ne dimostra molto di meno, ci avrà 40 anni, no? Io me ne mangiavo una persona adulta, nel senso di una persona di 60 anni. No, no, no, anzi forse ne dimostra di meno dell'età che c'ha. A me è vero che è robusto. Io ci avrei ragione, no, la Giumma non entra nella porta di casa. No, non lo conosco, tipo però in gamba, è simpatico. Altra lì in radio io non l'avevo mai sentito, ma l'altro giorno quello che si è messo a fare il tussico, parlando da tussico, ma non l'hai sentito? No. Gli altri parrilli che si infatti non l'avevo riconosciuto da per quel motivo, erano lui e Luca che stavano facendo gli scemi, facendo i tenei, spiccio, il sole, mi suono, facendo tutte voci strane, là. E lui Maria ha piacciono troppo d'oro. Che c'è scento lira? Come? Come era diciamo, che c'è scento lira? Ma non lo faceva così, diceva un altro tipo di corso, le chiamava quelli che i soldi con l'uomo e mezzo, non ne hai, tipo 500 lire e qualcosa di metallico. Parlavano di tutti i corsi, di queste voci tutte tagliate, con le S, tutte sdoppiate. Purtroppo sono cose brutte, tipo chi è che lo facevano quello? Pino gli anticorsi che faceva, come si chiama, quel tipo, il tussicomane con il telefonino, ma già devo farli lì. Uno è il fratello di un amico proprio amici di due ragazzini, uno di quelli è Roberto si chiama. Non li conosco come persone, però come sono bravi. Sono sopra di Gabbo. Fino agli altri gruppi, poi gli altri chi sono, quell'altro gruppo. Mi sono piaciuti, però quelli sono bravi anche cantando il 4-4, li avete sentiti? Mi sono piaciuti tantissimo, li ho visti una volta alla città mercato, fuori, sono rimasto a bocca aperta, proprio attaccato a loro in prima fila, ma mai rimasto troppo lì, poi bravi cantando, sono veramente bravi dei musicisti, veramente in gamba, cioè oltre che fare battute e scherzare, ti coinvolgono il pubblico, facciamo venire i bambini, adulti, li vedere troppo lì, cioè improvvisavano veramente bene, cioè non sono come l'anticorpi che la maggior parte è roba preparata, questi sapevano improvvisare benissimo. I 4-4 sono molto bravi. Se avevi solo questa cosa che vi ha fatto la roba, anche quelli. Tu che ci sono, c'è fino ai i tre sardi, lo stesso anche quelli sono bravi, però sono un po' troppo sboccati secondo me. Tre sardi? Non li conosco bene. Uno lo conosco da giovane, era un tipo spiritoso, dai, che piano piano si è unito a questo gruppo e è iniziato anche lui a entrare nelle cose del spettacolo. Facevano il corso, come si chiama, quelli scherzi a parte, loro hanno partecipato, lì davano, facevano gli attori, dare comparsa. Quindi fanno la pubblicità, la cinema, lo sai. Sì, sì, poi c'è Giuseppe Masia che è troppo dopo, e poi il numero uno, secondo me, è sempre Pieni Turco, a livello di preparazione artistica è il numero uno, anche se ormai non si sta più aggiornato, ma prima sono già da fare di, io ne ho qualcuna di cassette, sia di Benito che di, anzi Cipiccio, che di Giuseppe Masia, però Pieni Turco è il numero uno, secondo me. E anche Giuseppe Masia non scherza. Ah, ok, okay, ma anche Pieni Turco. Oh, Giuseppe Masia, io c'ho, adesso vabbè non ce l'ho più, oh, me l'avevano data, non so neanche che fine ha fatto, lui siccome è un insegnante, era almeno un insegnante all'istituto d'arte, e con gli allievi si metteva a fare le cose, registrazioni, e c'era un amico mio che era suo allievo, e gli aveva registrato una specie di cosa a scuola, uno spettacolino che ha fatto lui, le battutine, e l'hanno registrato, scatta due registri, poi era fuori, e poi dopo un paio di anni è diventato famoso. Succede. Mi sa che ci andiamo a letto, ragazzi. Sono quello che mi rompe le scarpe. Ma capa, ti saluto, ti auguro buonanotte e buon lavoro per domani. Ciao ciao. Ciao, buonanotte.